Smart City, la città intelligente. Buonasera, sono Federico Pedrocchi e vi porto questa sera in una regione, il Trentino, dove è in corso già da un po' di tempo, ma ci sono un sacco di novità e cose che arriveranno, un'attività che ricade genericamente sotto la definizione di telelavoro, ed è giusto che ricada sotto questa definizione, ovvero di strumenti però per conciliare la vita familiare e le attività lavorative. Ho i miei ospiti per parlare di questo argomento, Alessandro Zorer. Buonasera Zorer. Buonasera. Lei è amministratore delegato di Trentino Network, che è una società pubblica della provincia di Trento che si interessa appunto di applicazioni ICT in quel territorio. E poi ho Luciano Valser. Buonasera Valser. Buonasera. Lei è dirigente di questa agenzia che si interessa di famiglia e benessere della provincia di Trento. Sì, sì, sì. Senta Valser, cominciamo da lei, e però non giriamoci intorno, vediamo un caso concreto nel quale con queste tecnologie voi riuscite a creare una situazione per cui la casa e quindi la famiglia, le persone che stanno nell'ambito familiare e la dimensione lavorativa si possono incontrare positivamente. Vediamo un esempio. Sì, l'esempio si colloca dentro questa, diciamo, questo standard che la provincia di Trento ha, diciamo, emanato qualche anno fa. Si chiama Family Audit, quindi Family Audit. Standard che va a definire la volontà aziendale di fare della work-life balance un must aziendale, convinti che l'azienda che concilia, che introduce queste politiche, è l'azienda più competitiva di quella che non concilia. Nella linea guida è previsto un campo specifico dedicato alle nuove tecnologie. Work-life balance, le ha detto, ce lo traduca? Diciamo conciliazione vita-lavoro. Ah, vita-lavoro. Quindi proprio quello che dicevamo all'inizio. Per esempio, come si può conciliare? Ecco, è una delle, diciamo, esperienze fatta, diciamo, a livello locale su una serie di organizzazioni è questa anche videoconferenza casa e lavoro, quindi dove l'amministrazione ha concesso la possibilità al dipendente con carichi familiari, che può essere il nonno a casa piuttosto che un bambino piccolo, di poter avere dei videocontatti con la propria abitazione al fine di mitigare il problema a casa, no? Quindi è un problema di apprensione che può esserci nel nonno a casa, piuttosto che il problema del dipendente. Ecco, cioè, scusi, il dipendente è alla sua stazione di lavoro, ma ha di fronte a sé un monitor che è costantemente collegato con casa. È un videotelefono. È un videotelefono. Era un videotelefono, sì, era un videotelefono. Okay. La sponsorizzazione è di qualche anno fa, oggi possiamo farlo col monitor. Sì, e questo è un tipo di soluzione, ce ne sono altre, magari anche che verranno, che state progettando? Ma un'altra soluzione importantissima è il telelavoro classico, fatto dal dipendente, da dipendenti. Nella mia agenzia siamo in 50 dipendenti, sono 15 le persone che telelavorano, svolgono soluzioni da remoto e sono situazioni, diciamo, del telelavoro domiciliare, sì, o da telelavoro mobile, no? Quindi la postazione è differente a seconda della situazione del dipendente e della condizione familiare, della distanza. Alessandro Zorer, per fare queste cose ci vuole una collaborazione con le aziende? Ma ci vuole assolutamente una collaborazione con le aziende, perché hanno anche un certo impatto organizzativo queste tecnologie. Ad esempio, quando si parla di videocomunicazione col familiare a casa, significa trovare o la postazione di lavoro standard del dipendente che appunto si connette in video con un telefono che ha, diciamo, il video disponibile a casa. Oppure si tratta di trovare anche delle sale riunioni apposite in cui mettere una videocomunicazione, in cui avere anche maggiore privacy. Adesso certo, la tendenza è quella di andare anche, per quanto riguarda il telelavoro, di poter scegliere sia o fare telelavoro da casa o andare verso il concetto di smart work center. Quindi noi stiamo collaborando in questo momento con Cisco e stiamo sperimentando un ambiente integrato che consente di avere delle postazioni virtuali che sono vicine vicino alla casa dei lavoratori, quindi sono distribuite sul territorio e consentono effettivamente di trovare un ambiente di lavoro per magari alcune giornate in cui c'è anche bisogno di essere molto più in contatto con i familiari a casa, e quindi avere una soluzione intermedia, diciamo così, tra la casa e quindi l'ambiente di telelavoro a casa e l'ambiente invece di lavoro standard che troviamo negli uffici. Se pensiamo ai pendolari, invece che farsi 60 chilometri, esatto, magari fanno un chilometro e vanno in un centro di questo genere che è vicinissimo a casa, però è attrezzato per dialogare con l'azienda. Esatto, e sono attrezzati anche per essere in qualche modo modulari, in cui diverse aziende possono sfruttare di fatto questi ambienti, no, in maniera, come dire, configurabile per determinati periodi sulla base di esigenze che mai emergono specifiche con il loro personale. Alessandro Zorer e Luciano Valser, grazie, buona serata e buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Grazie a tutti, buona serata. Smart City finisce qui per questa sera. Vi dico che domani parleremo di un'iniziativa di Federutility, l'acqua, il massimo della trasparenza.